Cambiarlo, e anche se dovrei farlo è tutto senza senso. Sono l'esperto del cielo coperto, Marte è il mio supporto. Per lo sconforto cerco un rapporto che mi conceda un porto. Poi cerco tempesta, d'altronde sono un cazzo di spirito insorto. A torto in un mondo ormai morto. Ho il passaporto ma non basta, voglio il teletrasporto. Sono un fottuto insoddisfatto, assuefatto dall'ennesimo mi sparto. E attratto dall'abbraccio di un branco compatto. Accetto questo stato, piatto e distratto. Sono un guerriero in letargo, ridi pagliaccio. E don't take offense at my innuendo. Ed io sognavo di un deserto senza rete, senza mete, un grattacielo di speranza e verità. Ma quello che ho qui adesso non compete, non mi sente, e voglio la mia imprigionata libertà. Ed io sognavo di un deserto senza rete, senza mete, un grattacielo di speranza e verità. Ma quello che ho qui adesso non compete, non mi sente, e voglio la mia imprigionata libertà. Provo a scorrere questa pellicola, la scena è nitida, è incredula. Mi godo questo viaggio a cifra modica, deserto, un cielo perso, lo sguardo immerso. Nessuna cosa nota che ricordi il mio universo. Sola, è solo mia la traccia sulla sabbia. Nessuno che mi tenga in gabbia o mi faccia rabbia. Io sotto questo sole che mi brucia l'anima, sfaldo ogni lacrima e mi lascio attonita. Pensiero a raffica, una guerriera senza tempo né spazio, né forza di reagire o grinta per poi meritare l'ozio. Un supporto nei suoi occhi, in quel suo profumo che conosco ma che adesso non avverto. Cerco il diverso, qualcosa che non schiacci, qualcuno che non spacchi. Regine non pedine in mezzo a tanti scacchi. Non c'è oasi, non c'è più poesia dentro questo mio deserto. Il deserto è caldo, la sabbia scotta. Cerco un miraggio, un cammello, una palma. Solo un po' di refrigerio per placare il delirio. Il sudore è accessorio, è un mondo illusorio. Il caldo è il senso di questo purgatorio. Ed è obbligatorio, l'esistere è transitorio. E non è troppo vario, questo viaggio del cazzo è un insipido assaggio. Perché la vita è un deserto. Ed io sognavo di un deserto senza rete, senza mete, un grattacielo di speranza e verità. Ma quello che ho qui adesso non compete, non mi sente, e voglio la mia imprigionata libertà. Ed io sognavo di un deserto senza rete, un grattacielo di speranza e verità. Ma quello che ho qui adesso non compete, non mi sente, e voglio la mia imprigionata libertà.